E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo L'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa, in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro viaggio settimanale alla scoperta di questa Europa in cui viviamo, questa Europa che ci riempie di sollecitazioni, di stimoli, anche di preoccupazioni a volte, e noi cerchiamo di raccontare aspetti magari che sfuggono anche all'attualità, alla cronaca, oppure questa attualità e questa cronaca tentiamo di vederla anche da altri punti di vista. Le coordinate per intervenire in diretta con i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure attraverso le nostre pagine ufficiali nei facebook.com/l'altra Europa. Nella bacheca e pubblichiamo anche in diretta tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. È un programma in collaborazione con Euronet, questa network di radio europee che cercano di offrire anche i punti di vista delle varie culture, delle varie nazioni su argomenti comuni. Ogni settimana scegliamo insieme un argomento e andiamo appunto ad affrontarlo con i vari aspetti, con le varie peculiarità. Oggi parliamo di un tema che ci tocca quotidianamente, il tema è: siamo sicuri di quel che mangiamo? Domanda che in tutta Europa i cittadini ovviamente si fanno, e tra l'altro proprio la puntata di oggi del Gastronauta, subito dopo di noi, sarà dedicata alle frodi alimentari qui in Italia. Noi invece cerchiamo di allargare un po' il campo e di farlo a livello europeo, capire se quando acquistiamo qualcosa, se questo qualcosa lo mangiamo, siamo sicuri di quello che è finito nel nostro piatto. Abbiamo scelto di trattare l'argomento da un punto di vista particolare, cioè invitando un avvocato, una persona che di professione appunto studia questi argomenti, è un'esperta di diritto alimentare italiano ed europeo e dei mangimi, dei farmaci e dei prodotti cosmetici, lavora tra la Germania e l'Italia, insegna diritto alimentare al centro di informazione della Comunità Europea in Lussemburgo. Diamo il benvenuto all'avvocato Barbara Klaus. Ciao Barbara, buon sabato. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, tu da avvocato e da esperta di diritto alimentare, quando mangi qualcosa sei tranquilla? Sì, allora io ho sempre in mente che c'è una vasta legislazione alimentare che ha proprio l'obiettivo di tutelare noi tutti, noi consumatori. Si tratta di una legislazione comunitaria, cioè è valida in tutti gli stati membri, tra cui l'Italia, e che uno dei principi fondamentali di questa legislazione, anche perché abbiamo imparato dalle crisi anche degli anni 90, il pollo alla diossina, la mucca pazza, allora in seguito a queste crisi si è creata una legislazione nel 2002 europea di base, il regolamento 178/2002, che sancisce il principio che tutti gli alimenti sul mercato dovrebbero essere sicuri, nel senso che gli alimenti a rischio, cioè gli alimenti non sicuri, non possono essere messi sul mercato. E se un operatore alimentare viene a sapere o comunque ritiene che un suo alimento che ha messo sul mercato non è sicuro, deve immediatamente ritirarlo, addirittura richiamarlo quando già è arrivato al consumatore finale. Certo, perché comunque il consumatore ha delle tutele, insomma ha possibilità anche di rivalersi. Tra l'altro la Commissione Europea ha un sistema d'allarme rapido che credo si chiami proprio così, vero? Dove i consumatori possono segnalare che si attiva quando in un paese della comunità viene constatata una violazione. Però tu lavori, diciamo, a un livello superiore, perché sei a contatto diretto con i produttori, con le aziende, con i commercianti, diciamo. Sì, perché i commercianti, tutti gli operatori del settore alimentare, compresi anche gli operatori economici che commercializzano i mangimi, ma anche quelli che commercializzano gli alimenti, sono i primi responsabili a garantire che tutta la legislazione alimentare e che i loro alimenti siano conformi a tutta questa legislazione. E il sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi, di cui tu hai fatto riferimento, che oggi sentiamo perché è successo di nuovo anche il caso della diossina in Germania, ed è proprio stato attivato questo sistema di allerta rapido, che è un sistema che ha sempre l'obiettivo di nuovo di tutelare i consumatori. È un sistema che è composto da punti di contatto in tutti gli stati membri, fa parte anche la Commissione Europea, anche l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare a Parma, E quando uno Stato membro che fa parte di questo sistema dispone di informazioni su un rischio grave per la salute da alimenti o da mangimi, come è successo ora nel caso della diossina, ha l'obbligo di informare immediatamente la Commissione europea, in modo che la Commissione europea abbia la possibilità di informare tutti gli altri Stati membri per trovare o per subito intraprendere tutte le misure necessarie al fine di cessare immediatamente questo rischio alimentare, per esempio sospendendo le attività delle aziende coinvolte o ritirando i prodotti dal mercato. Certo, informazione al pubblico e sicurezza dei cibi in sé sono i due filoni ovviamente fondamentali per quello che riguarda la sicurezza dell'alimentazione. Barbara, ma nel tuo lavoro quali sono le questioni più frequenti, nel senso dove sono le difficoltà vere? Vabbè, forse la difficoltà vera è che a volte nella prassi è veramente difficilissimo eliminare sempre tutti i rischi, perché i rischi comunque ci sono e bisogna sempre cercare di ridurli al massimo. E anche se gli operatori alimentari posso dire che cercano veramente di assicurare la maggior parte, almeno perché hanno anche l'obbligo, che i loro alimenti siano sicuri, non è sempre possibile escludere tutto. E questo è un po' il rischio della praticità, cioè proprio nella prassi di veramente implementare tutto il possibile al fine di evitare i rischi. Però, come ho detto, quando un rischio si dovesse verificare, ci sono anche i meccanismi delle procedure di sicurezza, per esempio il ritiro e il richiamo. Mm-hmm. E poi la difficoltà forse veramente di informare in modo adeguato anche il consumatore, di dargli la possibilità di fare delle scelte consapevole e informati, e lì c'è anche una collaborazione tra l'industria alimentare e anche le autorità, che anche loro hanno comunque il compito di educare i consumatori sotto il profilo della nutrizione. Certo, Barbara, un'ultima domanda: tu dal tuo osservatorio privilegiato in questo campo, esiste un'Europa unita nei piatti, nel senso comunque questa sicurezza è comune in ogni nazione, o ci sono grosse differenze tra uno Stato e l'altro? No, io credo che proprio ci sia proprio la volontà di tutti di implementare queste norme molto severe negli singoli Stati membri. C'è una commissione molto efficace, c'è la direttrice generale per la salute e la tutela dei consumatori, che addirittura per ora è un'italiana, la dottoressa Paola Testore Cocci, e credo che con il loro team riescono proprio ad assicurare che in tutti gli Stati membri gli alimenti dovrebbero avere lo stesso livello di sicurezza alimentare. Grazie davvero Barbara Claus, esperta di diritto alimentare italiano ed europeo, avvocato qui a Milano e non solo. Europost-it. Un diario per l'Europa. Il Diario Europa è un'agenda per i ragazzi del terzo anno delle scuole medie, ricco di curiosità e notizie sull'Europa, il suo ambiente, la sua storia e le iniziative più interessanti per i giovani. Ci si trova un po' di tutto, dagli aforismi alle citazioni di personaggi importanti, alle informazioni sulle professioni del futuro, alla tutela dei consumatori. È realizzato grazie a un progetto finanziato dalla Commissione europea e in collaborazione con Generation Europe Foundation e l'Unione Nazionale Consumatori. Insieme al diario c'è anche un kit per gli insegnanti, per riprendere le tematiche trattate ogni giorno e approfondirle con i propri studenti, con suggerimenti e spunti per attività e discussioni in classe o per progetti di ricerca da sviluppare a casa. Il tutto è completamente gratuito. Basta ordinare il kit e il diario per i ragazzi entro il 28 gennaio sul sito europadiary.eu, dove si trovano tutte le informazioni. Gerade wurde in einem beliebten Badeort bei Neapel der Bürgermeister von der Camorra erschossen. In Palermo wurden vor wenigen Tagen mal wieder Giftmüllcontainer beschlagnahmt, die Mafia verschiffen wollte. Questa è l'altra Europa. Quello che invece state ascoltando è l'incipit di un documentario sulla mafia in Germania, perché di questo andiamo a parlare adesso e lo facciamo insieme a una giornalista che da anni vive in Italia, ma è corrispondente per la Germania per diverse testate e soprattutto da anni studia la presenza della mafia in Germania e soprattutto il discorso della consapevolezza dei tedeschi della presenza anche nella loro nazione, nella loro quotidianità della mafia. Ha pubblicato due libri, uno si intitola Santa Mafia e l'altro Da Camena a Corleone, in uscita a maggio, e soprattutto una delle promotrici di questa nuova associazione, di questo percorso di educazione alla legalità che anche in Germania si vuole far cominciare. Diamo il benvenuto a Petra Reschi. Ciao Petra, buon sabato. Buongiorno. Cosa vuol dire quando si parla di mafia in Germania e cosa significa anche, che valore ha il tuo lavoro? L'obiettivo è solo quello di raccontare una presenza della mafia in Germania o è qualcosa di più? Beh, intanto i tedeschi non sono consapevoli dell'esistenza della mafia in Germania, non neanche dopo Duisburg. Si erano svegliati per un po' dopo la strage di Duisburg, però adesso si sono riaddormentati nel lungo sonno in cui hanno passato gli ultimi 40 anni in cui la mafia fa gli affari in Germania. Ma cosa significa, scusa? Cioè, negano la presenza, non la vedono, non se ne accorgono, non la vogliono vedere? Miscuglio di tutto, però soprattutto non la vedono giustamente, anche perché non è che la strage di Duisburg è stato una grande eccezione, praticamente un incidente di percorso, perché di solito non ci sono intanto, non ci sono morti, e dunque il riciclaggio è una cosa che nessuno vede se non gli inquirenti, e viene considerato dai tedeschi molto meno pericoloso, per esempio, che una irruzione a casa. Sì, ho capito. E quindi Duisburg non ha mosso niente, ma quando tu parli di mafia in Germania, vuol dire la mafia italiana ovviamente presente lì, e con rapporti con il mondo politico, col mondo amministrativo, ma ci sono anche tedeschi affiliati? Ma affiliati no. Però senza il sostegno dei tedeschi, di avvocati tedeschi, di commercialisti tedeschi, di mogli tedesche, la mafia non potrebbe ovviamente fare gli affari in Germania, come ovunque, anche come nel nord dell'Italia è la stessa cosa. Dunque senza il sostegno dei tedeschi, ampio sostegno dei tedeschi, loro non potrebbero sopravvivere. E io cerco di far capire, perché gli inquirenti, ovviamente i magistrati, i poliziotti tedeschi, a loro è ben presente il problema della mafia in Germania. E nonostante il problema è soprattutto che dal 2001 la priorità politica si concentra sulla battaglia contro il terrorismo islamico. Da quel momento, dunque da adesso, da 10 anni, sono stati sottratti i funzionari della polizia e anche della magistratura, tutta l'energia si concentra sulla battaglia contro il terrorismo islamico. In questo caso la mafia viene considerata un pericolo minore, cosa molto grave, come mi dicono, come confermano anche tutti i magistrati italiani, perché uno spalico è stato commesso anche in Italia durante gli anni del terrorismo, in cui la mafia si è sviluppato benissimo in Italia. Dunque la stessa cosa valida anche per la mafia in Germania. E mi accorgo quando presento il libro in Germania, quando parlo con la gente che è interessata al tema, tanti tedeschi chiedono veramente più informazioni, però c'è una grande lacuna, perché anche dalla parte dei miei colleghi tedeschi, che purtroppo in Germania non sono corrente delle vicende della mafia in generale, dunque ancora meno non hanno l'occhio per le attività della mafia in Germania. Mm-hmm. E Petra, ma sei stata anche censurata, vero, nel tuo libro Santa Mafia? Sì, il libro è stato censurato dai protagonisti stessi, da un tribunale, a provvedimento di urgenza di un tribunale a Monaco. La stessa cosa che, a proposito, è successo anche dagli stessi protagonisti dello stesso tribunale a Monaco al mio collega Francesco Forgione, che ha pubblicato il libro Mafia Export in Germania anche. Dunque è stato un caso molto clamoroso per me, perlomeno, e anche per tanti italiani che sono un po' al corrente della vicenda, mentre in Germania il diritto alla privacy di certi personaggi viene considerato molto più valido che il diritto dell'informazione. Mm-hmm. Petra, adesso è nata questa associazione Mafia Nein Danke. Che cos'è, da chi è promossa e quali sono gli obiettivi finali? Allora, Mafia Nein Danke è l'unica associazione antimafia in Germania che esiste finora. È un'associazione che consiste di gastronomi italiani, anche altri che non sono altri italiani che non sono gastronomi, però è nato all'inizio di un tentativo di chiedere pizzo a questi gastronomi italiani, con il sostegno della polizia locale di Berlino, in particolare un poliziotto che si chiama Bernd Finger, sì, e anche con il sostegno della deputata, dell'onorevole Laura Garavini del PD in Germania, quella che è responsabile per gli italiani all'estero, è nata questa associazione. Ed è molto importante, perché è la prima volta che gli italiani, in particolare perché di solito quelli che sono le prime vittime della mafia in Germania sono gli italiani stessi, in particolare i gastronomi italiani. Sì. Dunque è un segnale molto forte, molto importante, e spero anche che questo si propaga anche in tutta la Germania, che non rimanga limitato a Berlino. Quindi insomma una forte presa di consapevolezza, un po' questo sì. l'obiettivo di una presenza che c'è e che incide nella vita anche sì. delle comunità tedesche. E il tuo prossimo libro invece è Da Carmen a Corleone, e di cosa tratta, cosa il focus, allora io ho fatto, siccome ho fatto 20 anni avendo letto Il Padrino, ho fatto questo viaggio da Carmen, dove sono nata, che è vicino nella regione della Ruhr, vicino a Duisburg. Ho fatto quel viaggio in macchina da Carmen a Corleone perché avevo un concetto ovviamente che tuttora valido per tanti tedeschi, folcloristico della mafia, e sono andata lì a 20 anni per vedere cosa è la mafia a Corleone. Ero molto delusa all'epoca perché vedevo solo questi vecchietti con la coppola seduti lungo la strada. E allora io adesso ho fatto questo stesso viaggio di nuovo, ovviamente con la mia coscienza di oggi, della mafia, in particolare della mafia in Germania, e ho guardato soprattutto i centri della mafia in Germania, da Duisburg, non solo in quella regione della Renania-Vestfalia, poi Stoccarda, Monaco, Kempten, altri centri, e poi anche in Germania dell'Est, Erfurt per esempio, c'è un grande, altra veramente una roccaforte dell'Andrangheta, e fino ad arrivare poi in Italia, incontrando sempre protagonisti della lotta contro la mafia, che potevano darmi informazioni per allargare un po' l'orizzonte dei tedeschi sul fenomeno della mafia in Germania. Perfetto, grazie davvero Petra. C'è un sito di riferimento per chi volesse seguire un po' le attività o dell'associazione o delle tue indagini? Allora c'è anche www.mafianeindanke.de. Sì. E poi il mio sito www.petrareschi.com. Benissimo, aggiorneremo in diretta le nostre pagine in Facebook. E Petra, grazie, tra l'altro eri stata ospite anche tempo fa in Storiacce qui con Raffaella Calandra, quindi insomma sei una voce amica di Radio 24 e ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao e buon sabato. Grazie a voi. Europost-it. Workshop per artisti, un festival, un simposio ed alcuni laboratori pratici su teatro e arti visive dedicato ad artisti internazionali di qualsiasi disciplina che desiderino fare nuove esperienze e trovare nuovi contatti. Il tutto all'interno del Festival Teatrale Internazionale Heimspiel 2011 a Colonia in Germania dal 29 marzo al 3 aprile. Gli artisti possono anche prendere parte ad alcuni spettacoli come attori, ad esempio nell'evento pubblico Fast Forward, che si terrà il 31 marzo. Per iscriversi ed avere più informazioni, heimspiel2011.de. Tante indagini, tanti sondaggi mettono Berlino in cima a tutte le classifiche che riguardano la qualità della vita per i bambini. Sì, a livello europeo Berlino pare la città più a misura di bambino. E per capire il perché abbiamo invitato un insegnante di asilo, di scuola d'infanzia a Berlino. Si chiama Lea Tecla Krieger ed è qua con noi. Ciao Lea. Buongiorno Federico. Buongiorno a te, stai bene? Buon sabato intanto. Sì, grazie. Ma è freddo a Berlino in questo periodo? Immagino di sì. In questo momento in realtà non fa così freddo, cioè abbiamo 5 gradi, quindi è in realtà abbastanza caldo per gennaio. Ah, ok, insomma, quindi fanno delle facce strane dall'altra parte del vetro, quando hai detto caldo 5 gradi, ma insomma sai che è tutto relativo. Sì, infatti. Lì abbiamo trovato questo articolo su Style, mi pare, sì, di Sara Ficocelli, una collega giornalista che segue molto quello che accade nella città tedesca, e, sì. E appunto c'è questo bel articolo che fotografa Berlino come la città ideale per i bambini, ma anche per chi ha figli. Tu sei stata intervistata, credo, in qualità di maestra d'asilo, quindi, o sei anche mamma, no? No, non sono mamma. Ok, che cos'ha Berlino che non si trova nelle altre città? Perché è facile essere bambino o avere figli a Berlino? Sì, ci sono tantissime ragioni. Direi che Berlino è sicuramente una città a misura di bambino, quanto offre un'atmosfera incoraggiante per fare figli, soprattutto alle coppie giovani. A partire dalle scuole, che sono tantissime di diverso genere, sia pubbliche che private, che cominciano ad accogliere i bambini a partire dai 2 anni. E in più lo Stato offre delle agevolazioni ai genitori, come il congedo di maternità o paternità fino ai 14 mesi. E una cosa ancora più importante è che i genitori spesso hanno la certezza di poter tornare al lavoro, che è spesso a tempo indeterminato, dopo il congedo. Sì. Inoltre la stessa urbanistica della città la rende visibile per le famiglie. Ci sono parchi ovunque, parco giochi grandi ed elaborati ad ogni angolo, piste ciclabili sulla maggior parte delle strade, e magari i bambini sono abituati sin da piccolissimi ad andare in giro in bici, sia che ci sia il sole o che faccia freddo. E la rete dei mezzi pubblici è sviluppata ed efficiente ed è gratuita fino ai 6 anni. E, inoltre la città offre una gran varietà di musei che hanno sezioni per bambini con visite guidate, attività ludiche, teatri per bambini, circhi, corsi di qualsiasi genere, sport, attività musicale. E tutto questo rende la città molto vivibile e serena per famiglie, e quindi crea un ambiente fertile e positivo che incentiva i giovani a fare figli, non solo i giovani, ma ci sono tantissime coppie che hanno sui 30 anni che cominciano ad avere figli, hanno comunque questa sicurezza di che i loro figli saranno comunque accolti nella certo. città. E c'è un quartiere in particolare, vero? Che sembra proprio costruito per i più piccoli, almeno sì, così infatti. Riporta l'articolo. Quale sarebbe? Si chiama Prenzlauer Berg, uh-huh. Molto vicino al centro, cioè okay. praticamente è nel centro. Ho sentito che c'è una relazione tra adulto e bambino che è 2,4 bambini per adulto, che è un livello altissimo, e infatti il quartiere è talmente a misura di bambino che ci sono conosco un locale che vieta l'accesso ai bambini, perché è così che le persone che vogliono un po' di pace possono almeno avere quel punto di riferimento. Non ci credo, c'è una sorta di riserva. Cioè, stiamo parlando della città più a misura dei bambini, e poi ci sono delle osi dove dicono: per favore, non fate entrare i bambini, così respiriamo esatto. un attimo. Insomma, un po' paradossale, ma è anche indice forse che sì, a volte la qualità del rapporto con i bambini forse cresce, anche se si mantengono un po' di distanza, in effetti, per piccoli momenti, però fa anche bene, certo. Non lo insegno a te, che con i bambini ci lavori e ci vivi quotidianamente. Lea, scusa, ma tu sei italiana? Io no, sono mezza svizzera, mezza americana, ma sono cresciuta a Firenze per via del lavoro dei miei. Ok, infatti sentivo insomma questa cadenza toscana che un po' stonava col tuo essere. Tedesca, e come sei finita a Berlino? Sì, un po' per avventura, diciamo. Quando era 2 anni fa, ho perso il lavoro a Firenze e ho deciso che avevo bisogno di un cambiamento. E quindi ho pensato di voler andare in un posto dove non ero mai stata, avevo sentito tante cose di Berlino dai miei amici, e in più anche perché parlavo già abbastanza il tedesco per farmi capire, dato che mia mamma è svizzera. E quindi ho deciso di venire qua e dal primo giorno non ho esitato. Ci ho sì. messo un po' a trovare lavoro, ma sono molto molto contenta della mia decisione. Che città hai trovato quando sei arrivata? Qual è stato appunto il primo impatto? Primo impatto, molto fredda, sì. perché era febbraio, però subito dopo l'inverno è scoppiata la primavera e è piaciuta tantissimo. Ho comprato subito una bici e ho cominciato a esplorarla, ogni giorno un quartiere diverso, e si è aperta una città piena di opportunità, piena di divertimento e cose da vedere. Ed è stato facile trovare lavoro, nel senso, non l'hai trovato subito, però è una città che comunque offre opportunità. Esatto, io ho cominciato subito a cercare nell'ambiente delle scuole bilingue, perché dato che volevo fare l'insegnante d'inglese, e quindi ci sono tantissimi asili bilingue qui, che sono inglese e tedesco, infatti io lavoro a uno di questi adesso, e non appena ho mandato i miei curriculum ho subito ricevuto un riscontro, mi hanno subito invitato a colloqui, e offerto posizioni che poi magari non sono riuscita ad avere, ma ho comunque sentito un riscontro. Ascolta, e insomma noi parliamo di Europa e ci piace parlare d'Europa anche attraverso singole storie. Ci si sente un po' nel cuore dell'Europa, lì comunque Berlino è la capitale un po' di questa locomotiva d'Europa, cioè la Germania si sente traino dell'intero continente, secondo te, da quello che percepisci nella tua vita quotidiana? Direi che Berlino è una città molto diversa dal resto della Germania, lo dicono tutti qua, nel senso che è molto meno burocratica, in quanto, come i tedeschi si dice, sono sempre molto duri, molto rigidi, eccetera. Berlino un po' più fricchettona, per così dire, nel senso che sì, magari non guardano tanto le regole, oppure una città molto artistica, molto piena di musica, molto frizzante, ecco, quindi direi un po' diversa dal resto della Germania, però in quanto tale è una città importantissima per l'identità dell'Europa. Ok, e in qualità invece di maestra d'asilo, la conoscevi la canzone che abbiamo fatto ascoltare? Sì, certo, sì. La cantiamo. Ah sì, eh? Sì, a scuola. Oppure, vabbè dai, siamo qui, qual è un'altra canzone che piace molto, con la quale apri la giornata con i tuoi bambini? Ci sono delle canzoni per salutare. Sì dai, ce ne puoi cantare una, proprio un pezzettino, okay. Vai. Wir sagen uns hallo, hallo, hallo, hallo, wir sagen uns hallo und begrüßen uns so. Grazie maestra. Prego. Grazie davvero a Lea Tecla Krieg, appunto invitata per chiacchierare di Berlino e di questa città a misura di bambini, questa città che tu hai scelto appunto per vivere un pezzettino lì della tua vita. Grazie davvero, buon sabato, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Ciao. Grazie a te, buona ciao, giornata. Ciao. Europostit. Un museo pazzo. Dormire tra le renne, i topi e i canarini e le installazioni di arte contemporanea. Non è un sogno strampalato, ma quello che si può veramente fare per la modica cifra di 1000 euro al museo Hamburger Bahnhof a Berlino. Qui il biologo e artista belga Carsten Holler ha creato una mostra con una serie di strani macchinari per mostrare i funghi e licheni che le renne normalmente brucano e per raccogliere la loro urina che viene poi donata a chi si ferma lì a dormire. Finora il museo ha avuto successo con qualche polemica degli animalisti. Se volete provare anche voi, hamburgerbahnhof.de. Nino, sei contento di essere stato introdotto da Carla Bruni? Sono sorpreso e divertito, sì. ecco le storie che ci piace raccontare di questa Europa che ama contaminarsi. Do il benvenuto a Nino Dintrona, attore e regista sardo di nascita, ma poi cresciuto professionalmente a Torino e oggi direttore di un centro di cultura nazionale a Lione, che è il centro di fatto del teatro giovanile, vero Nino? Come possiamo definirlo? Facci capire a noi italiani che insomma a volte siamo acerbi di queste, di queste piccole chicche che ci sono a livello europeo. Cosa combini tu lì a Lione? Ah, io fondamentalmente dirigo quello che si potrebbe definire in Italia un teatro stabile di innovazione, vale a dire un centro drammatico nazionale, viene chiamato qui in Francia, ce ne sono circa 33, di cui il mio ha questa originalità di indirizzarsi a quello che io definisco un pubblico intergenerazionale, vale a dire che propone del teatro, degli spettacoli che possano essere accessibili sia a un pubblico di ragazzi, di giovani e di adulti e che non deluda né gli uni né gli altri. Mm-hmm. Quindi il teatro Tienge, giusto? È questo il teatro Nouvelle Génération. Ok, e da quant'è che lo dirigi? Dunque, ho cominciato a dirigere nel luglio 2004 e quindi sono alla settima stagione. A quell'epoca ero a Las Vegas a dirigere uno spettacolo del Cirque du Soleil stabile a Las Vegas e mi hanno chiamato dalla Francia per sapere se volevo candidarmi alla direzione di questo centro drammatico nazionale. Insomma, come dire di no, vero? A un'offerta del genere. Nino Sarkozy pochi giorni fa ha dato il buon anno alla cultura, credo un bel segno, anche con un po' di invidia. Poi magari ci racconti anche com'è la situazione lì in Francia rispetto a quello che viviamo qui in Italia. E tu c'eri, probabilmente forse eri anche uno degli unici italiani, perché insomma non credo siano tanti gli italiani direttori di istituzioni così importanti lì in Francia a livello culturale. Ma di sicuro, per ciò che riguarda i centri drammatici nazionali, sono l'unico direttore italiano. Tra l'altro sono anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Centri Drammatici Nazionali, che è ancora più sconcertante. E effettivamente eravamo invitati noi di istituzioni culturali importanti francesi, naturalmente c'erano anche dei musei, c'erano anche, diciamo, l'educazione nazionale, la scuola. Saremmo stati, credo, 2-3 mila persone, non le ho contate tutte. Ed è stato interessante perché sul manifesto che c'era dietro Nicolas Sarkozy c'era scritto auguri al mondo della conoscenza e della cultura. Nicolas Sarkozy ha fatto un discorso, devo dire, molto interessante, molto incoraggiante, e io in quella situazione che fa pensare un po' al cinema a volte, con guardie del corpo dappertutto, mi sono ritrovato a mezzo metro da lui, ci siamo dati la mano e di fianco c'era sua moglie Carla Bruni. E l'occasione è stata abbastanza carina perché ci siamo incrociati con lo sguardo, ho detto buongiorno signora Bruni, mi ha guardato come un extraterrestre naturalmente, perché in quel contesto sentire uno che parla perfettamente l'italiano senza accento, sì, la sorpresa, gli ho detto io sono il direttore di un centro drammatico nazionale qui in Francia e come lei sono italiano e in più vengo da Torino, mi ha guardato, mi ha detto ma davvero? E ci siamo fatti un sorriso che diceva tante cose. Certo, insomma. E mi ha detto siamo espatriati, in un modo un po' sorridente, un po' come cercare una complicità. Mm-hmm. Insomma, quindi non userai però le sue musiche, questo è vero, le sue canzoni per uno spettacolo per le nuove generazioni, questo ce lo puoi promettere anche a noi italiani? Lo prometto. Grazie. Nino, ma da italiano è più facile lavorare lì nel mondo della cultura? Guarda, sto pensando che insomma il teatro per l'infanzia, il teatro giovanile in Italia è considerato ancora un teatro di nicchia, comunque un teatro secondario, anche se ci sono bellissime realtà partendo dalla stessa Torino, ma non solo. Però sono entrato nel tuo sito, nel sito del teatro, del tuo centro, abbiamo pubblicato il link nelle nostre pagine in Facebook, ed è una struttura bellissima, una struttura viva, e merito tuo, ma merito anche del contorno, merito dell'habitat che c'è lì attorno a te? Io credo di sì, cioè la cosa che caratterizza molto il piacere di lavorare in questo paese è avere la sensazione di essere veramente seguiti, aiutati e seguiti anche, nel senso che un dettaglio che può parere incredibile, io quando faccio una creazione ho rappresentanti del Ministero della Cultura, della città, della regione, della provincia che vengono a vedere il lavoro e con cui io dialogo senza nessun tipo di paura, di amicizie tra virgolette particolari o di partito, quindi con una grande libertà che si basa su ciò che uno fa professionalmente. E in questo senso questo paese è un vero piacere. Mm-hmm. E il fatto che sia un italiano a dirigere una struttura così importante crea qualche invidia, qualche perplessità, o insomma anche qui siamo nei luoghi comuni? Beh certo, ci sono sempre le invidie, più si è in alto più ci sono invidie, questo ahimè l'ho compreso a mie spese, però devo dire che essendo un paese multirazziale che ha sempre avuto una grande apertura, una grande tolleranza verso gli altri, verso le altre culture, verso gli altri paesi e oltretutto con un grande rispetto e un grande amore per la cultura italiana, direi che la maggior parte delle volte io ho piuttosto una relazione che considero positiva con tutte le persone perché mi guardano e mi osservano culturalmente, professionalmente come uno che produce questo DNA della grande cultura italiana e della grande arte italiana. Poi io mi sento un umile rappresentante di questo, però effettivamente c'è sempre qualcosa che apportiamo noi italiani che ci contraddistingue, questo senza dubbio. Ecco, ribaltiamo un po' la visuale, guardiamo anche il pubblico. Tu insomma sei salito sul palco migliaia di volte con i tuoi spettacoli, quindi hai conoscenza del pubblico a livello europeo, perché sei stato in tournée in tutta Europa spesso. C'è diversità, nel senso l'approccio per esempio del pubblico francese rispetto a quello italiano? C'è una curiosità diversa, c'è un'attenzione diversa, o davanti comunque a una bella produzione le reazioni del pubblico sono uguali ovunque? Ma le reazioni cambiano, a volte scherziamo con i miei amici francesi, a volte cambiano anche già solo da Lione a Valence, che è a un'ora di qui, dove si considera che cominci il sud della Francia, e il pubblico per esempio lionese viene considerato molto spesso un po' come anche a Torino un pubblico tendenzialmente più freddo di altri, per cui a volte si dice che se uno spettacolo va bene a Lione poi può andare bene un po' dappertutto. Direi che tendenzialmente sì, il pubblico francese ha forse una caratteristica, se devo generalizzare, è tendenzialmente un pubblico forse più cerebrale, ma sono i miei amici francesi stessi ad ammettere che il loro modo di affrontare non solo l'aspetto artistico ma la vita in generale è un modo tra virgolette più serio, qualche volta più serioso, e quindi questo si sente anche nel pubblico. Mentre forse quando si pensa a un pubblico italiano, direi anche nell'aspetto più positivo, si tende a pensare a un pubblico tendenzialmente più sorridente, più aperto. Ok, a cosa stai lavorando adesso? Quali sono i prossimi progetti, se ce li puoi anticipare? In questo momento ho appena fatto la prima di uno spettacolo che si intitola Terre, al plurale col punto esclamativo, che è la storia della conquista del territorio. E quindi su come ci si ammazza, il conflitto, insomma, su come appropriarsi di un pezzo di terra. Quindi la metafora è valida non solo per i posti del Medio Oriente, ma direi che vanno fino a un luogo dove c'è un giardino d'infanzia e due bambini possono picchiarsi per un piccolo pezzo di bacca sable. Esatto, insomma, estrema attualità. www.tiengelinettalion.fr, il sito ufficiale del teatro della Nouvelle Génération di Lione. Grazie davvero, Nino. Ecco, ci ha salutato prima dei saluti, giustamente è caduta la linea. Comunque troverete il link nelle nostre pagine in Facebook. Europostit. Europa e Giovani 2011, un concorso per una piccola tesi su un tema europeo che fa vincere anche qualche centinaio di euro. L'Istituto regionale di studi europei del Friuli Venezia Giulia bandisce il concorso Europa e Giovani 2011, che richiede di scrivere una breve tesina su un argomento di interesse europeo come la memoria, l'ecologia, i rifiuti. Possono parteciparvi studenti di università e scuole di ogni ordine e grado, ed ognuno di questi ha un gruppo di tematiche specifico da affrontare. Le tesine dei ragazzi più piccoli possono essere svolte in gruppo, mentre quelle degli studenti universitari possono essere accompagnate da un video e una sintesi in inglese. Si può vincere fino a 600 euro. Gli elaborati, che possono essere scritti in italiano ma anche in altre lingue, devono essere presentati entro il 9 aprile presso la sede dell'Istituto regionale di studi europei del Friuli Venezia Giulia. Per vedere il regolamento e le tracce, centroculturapordenone.it. Questi sono i nostri Europostit. Troverete tutto nelle nostre pagine in Facebook e sul sito radio24.it. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ina e a Giorgio De Luca, e oggi alla parte tecnica Carmelo Lauricella. Abbiamo aperto parlando di sicurezza alimentare in Europa. Dopo di me Davide Paolini per parlare di frodi alimentari. Si parlerà direttamente di quello che sta accadendo qui in Italia, quindi una puntata assolutamente da seguire. Noi con l'Altra Europa invece ci ritroviamo qua, come sempre, sabato prossimo. Ancora ciao!